A tempo di sport con Carlo Genta. Beh, alla fine a quanto pare ci avevamo preso anche con la musichetta di fondo. Giallo a Milano, è pertinente la domanda che avete sentito nei titoli del giornale radio: ma chi allenerà l'Inter? Diaspora a Milano, sembra che tutti se ne vogliano andare, da Leonardo a Eto'o, che nessuno voglia arrivare perché la Nación dice che Marcelo Bielsa ha risposto no grazie all'invito di Moratti, e oggi Leonardo deve dare risposte, forse il contraccolpo di Mourinho, dopo di lui il diluvio. Ne parliamo con uno che è ancora una bandiera per l'Inter, Evaristo Beccarossi. Ciao Beck. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ma com'è bello, possibile? Bello lo scenario, eh? Bello, eh? Mica male. Suspense, come andrà a finire? Si parla, si discute. Si parla, si discute e si fa il mercato discute, in piazza. Si chiede a chi comanda se un'opportunità del genere bisogna sfruttarla o no, da Parigi. Questo è bello. Si fa sondaggi in giro chi c'è. È una bella estate. Perché qualcuno dice, no, ma una cosa curiosa è che è come per i processi italiani, no? Il mercato dell'Inter viene fatto in piazza. Gli altri, quando esce una voce, perché hanno già firmato. All'Inter invece arriva il temporale, no, all'improvviso. Credo che questo sia un po' giusto rispetto agli ultimi anni, dove invece ci si divertiva anche perché senti, c'era la lista di chi vuole venire all'Inter, e anche sì, adesso ti assicuro che c'è la coda. Sì. No, c'è un po' di situazione che nessuno se l'aspettava, perché credo che lo stesso Leonardo, insomma, non se l'aspettasse che arrivasse una proposta di questo genere, dove hai meno stress, dove magari negli ultimi anni lui ha allenato Milan e Inter tutti i giorni, insomma, dove dimostrare. Qua è un ruolo da dirigente con un contratto pesantissimo, e credo che lui abbia scelto o stia per scegliere la situazione di comodo, perché sì, fai il dirigente, però nello stesso tempo, quando si hanno degli impegni e dei contratti con grandi società, e io parlo della mia Inter, certo, bisogna essere anche molto delicati a affrontare il discorso, anche perché devi sempre chiedere, perché alla fine in questa situazione è la società che comanda. Senti, Evaristo, facciamo i carognoni. Chi lo fa l'affare, sì, se Leonardo va via? Questo non lo so, perché nella mia testa avevo un disegno. Credo che Leonardo fosse la naturale continuità di un discorso e di un credo calcistico di Mourinho. E quello che magari gli scaldava la panchina in attesa del ritorno, perché io avevo questa impressione. Credo che il disegno fosse quello, nel senso che José probabilmente farà un paio d'anni a Madrid e cercare appunto di... Però, insomma, quello che ha lasciato José a Milano è la luce del sole, insomma, ha fatto grandi cose e ha lasciato un ottimo ricordo. Però adesso si complica tutto, perché il problema non è tanto liberare Leonardo, però bisogna trovare anche chi è un allenatore che abbia, così, abbia certe caratteristiche per proseguire un certo discorso di centro negli ultimi anni. Sicuro. E questo è Eto'o che vuole andare via? Un grande club, secondo me, deve vendere un giocatore che vuole andare via, cercando magari di tirarci fuori il meglio. Forse Eto'o è anche quello più monetizzabile dopo la stagione che ha fatto, più di Snyder, più di Maicon, più qua degli altri. Sempre... Io in questo momento invece partirei al contrario, che Eto'o è l'unico giocatore confermato dalla mia squadra. Vista la stagione che ha fatto, sì. Esatto. Però è anche vero che nel calcio di oggi, quando arrivano offerte importanti, perché qua stiamo parlando, io sto seguendo il calciomercato, cioè arrivano offerte 35-40 milioni di euro, ma se fossero soldi veri, io credo che gli aeroporti fossero, cioè, siano intasati in questo periodo con le cifre lì. È che la realtà non è quella, perché se mi arriva un'offerta di Eto'o forte, è chiaro che una società a quei tempi che corrono può anche prenderla in considerazione, anche se a livello tecnico credo che veramente sia l'unico giocatore dove ci sia il veto per una sua cessione. Mentre invece per altri giocatori o grandi giocatori, se arrivasse un'offerta tosta, si è pronti a secondo me, sacrificare. Sì, una cosa mi lascia perplesso tornando a Leonardo, sì, che non si è lasciato bene con i senatori del Milan, chiedi a Gattuso, ma naturalmente chiedi a Veronzaghi. Però anche Gattuso dovrebbe probabilmente chiedersi qualcosa di perché di Leonardo, sì, dice così. Sì, sì, sempre, sì, le due parti noi dobbiamo imparare a commentare. Però non si è lasciato bene con i senatori del Milan e lo stesso con le superstar dell'Inter, perché saprai come Eto'o, ma anche Sneijder, soprattutto Sneijder, anche Maicon, forse anche Thiago Motta, non fossero così entusiasti della gestione Leonardo. Perché, ma lì è diversa, perché Leonardo è chiaro che è subentrato in corsa dove noi avevamo perso addirittura autostima. C'era un gruppo di giocatori che era arrivato dopo aver vinto tanto. Benitez, secondo me, qualche problemino l'ha creato nella gestione del gruppo. Quando è subentrato Leonardo è chiaro che ha chiesto la mano a tutti. Tra virgolette, il problema è subentrato dopo, quando li hai recuperati e avuti tutti a disposizione. Dovendo fare delle scelte, ne ha messi fuori qualcuno. Allora è lì che può nascere un problema, perché magari uno ti può dire, oh, quando eravamo in difficoltà mi chiedi una mano, e poi dopo, quando fai la formazione quella giusta, sono rimasto fuori. Cioè, quelle sono cose normali, secondo me, nel, sì, calcio. Però, sì, il dato di fatto è che da quando aveva preso in mano lui l'Inter, secondo me, a livello di valutazione, ha fatto un'ottima annata. Sì, anche secondo me. Ti chiedo ancora questo, Beck. Sanchez, sì, di cui si parla, che vuole tutto il mondo, a quanto pare, è il giocatore che vuole naturalmente l'Inter, tanto che qualcuno dice ha già un accordo con l'Inter, poi a questo punto bisogna tirare fuori la moneda, come dicono, sì, da queste parti. Mi hanno insegnato di dire sempre credo e penso prima di esprimere un giudizio, perché l'ho fatto un anno con Pandev e non è piaciuto a qualcuno. Allora, credo e penso che, sì, Sanchez sia un giocatore che va bene per l'Inter e si ha la possibilità di chiuderlo, perché secondo me si va verso una prima punta che può essere Pazzini, Milito per un ruolo, e in appoggio Eto'o centro-sinistra e Sanchez centro-destra. Però con questo schieramento secondo me c'è la possibilità di fare a meno di un trequartista che è appunto Sneijder. Allora lì probabilmente si andrà su un centrocampista. Ecco, questo è il disegno che immagino io. Poi dopo, non operando direttamente, certo, non lo so. Certo, certo. Un sacco di ascoltatori fanno il nome di Gasperini ormai da due giorni per la panchina dell'Inter. Ti piacerebbe? Io ero fermo a Palermo, poi dopo con Zamparini è andato su Pioli, poi Gasperini aspettava a Napoli. Credo che sia un allenatore che negli ultimi anni col Genoa ha sempre fatto bene, ha ottenuto sempre il massimo, al di là che poi il rapporto con Preziosi si era un po' inclinato portandolo all'esonero, però è un allenatore che fa giocare bene le, sì, squadre. Dunque per me meriterebbe una chance, ecco, piuttosto che stare lì, andare in giro a cercare in tutto il mondo, se ci fosse la possibilità. Gasperini a me personalmente piace. Beh, ti ringrazio. Buon lavoro, buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie Evaristo. Grazie Evaristo Beccalossi. Allora, visto che era piaciuta la colonna sonora al Beck, ve la facciamo risentire, poi andiamo sul traffico. Ancelotti non è libero? Domanda via SMS 349-238-6666. In maniera, se vogliamo, anche molto pertinente, Gianluca da Bergamo. Ma ve li immaginate, dopo tutto il casino che è successo con Leonardo, poi arriva anche Carletto Ancelotti? Io credo sarebbe perfetto, ma non perfetto, di più. Però credo anche che non si possa fare, anche perché, l'ho già detto molte volte, signor Carletto, l'Inter non la allenerebbe fino a prova contraria. E quindi restiamo alla cronaca, che è questa, dalle agenzie, causa all'Inter. Il sito della Nazione scrive che Marcelo Bielsa ha rifiutato l'offerta di allenare la squadra di Moratti, il quale non commenta. Ieri però Moratti aveva parlato, forse già conoscendo la risposta di Bielsa e magari i tentennamenti di Leonardo, aveva parlato di tempesta di vento o polverone. Sentiamolo. Vediamo un po' cosa succede, perché so, potrebbe anche essere tutto un gran fumo e tutto rimane come prima. Potrebbe, ma potrebbe anche non esserlo. E intanto nella notte c'è stata anche questa intervista a Eto'o, perché i nostri eroi vanno in giro per il mondo, tornano a casa. Thiago Silva che confida a una TV brasiliana di essere in contatti amichevoli o forse qualcosa di più con il Barcellona, caso che però mi pare si sia un po' sgonfiato nelle ultime ore dopo che Galliani era detto non scherziamo neanche, lui è il più forte difensore del mondo e ce lo teniamo in attesa della prossima puntata. Stavolta tocca a Eto'o che va in Camerun e ad una TV del suo paese rilascia questa intervista rivelando i suoi pensieri. C'est vrai que j'ai pas mal de propositions. J'ai un mois de vacances, j'ai largement le temps d'analyser toutes ces propositions et surtout je suis à 30 ans aujourd'hui. Francese abbastanza semplice da capire, ma magari l'avrete letto oggi. Ho la Premier League in testa e lì mi piacerebbe andare. Ho 30 anni, forse è l'ultimo contratto della mia vita e vedremo che fare. Insomma, le proposte ci sono per Eto'o e questo non mi sorprende. Ma chiedo anche a voi: sarebbe un'idea vendere Eto'o? Se Eto'o volesse andare via, potrebbe essere la riproposizione di una. Dell'affare Ibrahimovic che tanta fortuna ha portato all'Inter, magari sì. 800 24 00 24, questo è il numero verde per intervenire, messaggi sms 349 238 6666. Intanto, restando sulla cronaca di oggi, beh, avrete letto, sentito che insomma Moggi è stato radiato, no, dalla il Tribunale federale ha accolto le richieste di Palazzi ed è stato radiato insieme a Giraudo e Mazzini, e oggi Moggi usa toni di guerra e di minaccia. La sentenza ha disatteso completamente quello che ha detto l'alta corte del CONI. C'è qualcuno che pagherà e lo sanno benissimo, vogliono la guerra e guerra faremo. Vedremo questo gioco a cosa porta. Voglio uscire dal calcio quando lo dico io, non quando lo dicono gli altri, ingiustamente. Così Luciano Moggi, venti di guerra. Intanto a Cremona, Antonio Bellavista, ex capitano del Bari e presunto truffatore e manipolatore di partite, presunto naturalmente, va agli arresti domiciliari, mentre Paoloni ancora no, perché il GIP deve riascoltarlo, deve risentirlo. Comincio volentieri a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde. Andrea, provincia di Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie mille dello spazio. Ascolti, io volevo fare una considerazione abbastanza semplice per quanto riguarda il calcio italiano, adesso al di là della situazione delle scommesse. Sì. Mi pare di capire, anzi è visibile il fatto che il calcio italiano sia proprio in declino totale e non se ne vede una gran via di uscita. Lei l'altro giorno diceva che rimettere a posto la situazione in Lega Pro è semplice, basta non far partecipare le squadre che non riescono a pagare gli stipendi. Cioè, bastano piccole cose anche in Serie A. Ma lei sa perfettamente come da noi le piccole cose sono le più difficili da fare. Il problema che io volevo dire, ed è molto semplice, che l'Italia, finché non sistema la sua situazione politica, sembra un discorso un po' assurdo, ma secondo me è proprio così. Finché noi sistemiamo la nostra situazione politica, non abbiamo nessunissima speranza che il nostro calcio possa diventare un calcio migliore. Questo è il mio punto di vista, però. Ma non le sembrano tante facce di una medaglia sola? Esatto, sempre stesse persone, sempre stesse cose, non c'è proposta, non c'è ricambio. Alla Federcalcio abete, è lì. Insomma, non è abete il problema, è proprio. Allora, questo l'Italia, Andrea, è probabilmente una questione molto nostra, molto di mentalità. Sappiamo bene, e glielo ripeto, come in Italia le cose difficili, le cose che sembrano logiche siano le più difficili da le cose più piccole e semplici sembrano le più difficili da realizzare, perché la vera grande rivoluzione di tutto questo casino putridissimo del calcio scommesse, vero, presunto, con un miliardo di voci, oggi ho letto cose inquietanti sull'Atalanta, su Doni, che peraltro ha reagito, non compare in alcuna intercettazione, però viene tirato in mezzo da tutte le parti, lui e addirittura l'Atalanta, su quale fondamento io non lo so, perché lì leggo solo delle delle dichiarazioni rilasciate da queste signore, non so quali prove possono costituire o quali quale fondamento possano avere. Doni ha detto tramite il suo legale che insomma, andrà a rendere interrogatorio e si difenderà con tutte le armi del caso, come mi pare giusto. Però dicevo, l'unica vera risposta importante a questo Letamaio sarebbe quello di sfruttarlo per rivoluzionare, ma in maniera profonda e totale, l'assetto di quei campionati, le vecchie C1 e C2 poi battezzate in mille maniere incomprensibili, però sarebbe quello di sfrondare quelle categorie, magari di ridurre, anzi certamente di ridurre il numero delle squadre professionistiche, come accade in tutti i paesi normali, dall'Inghilterra alla Germania, alla Spagna, alla Francia, che tra poco ci supererà. E vedrete se mi sbaglio, e qui scommetto, legalmente e legittimamente ci supererà, come ha fatto la Germania nel ranking UEFA nel giro di qualche anno, perché si stanno, la vicenda Leonardo può esserne una prova, si stanno attrezzando con i nuovi stadi, si stanno preparando per il futuro e per gli europei, e vedrete se questo non accadrà. Lorenzo Firenze, buonasera, buongiorno. Buonasera, buongiorno. Volevo parlare appunto di sensazioni, visto che vanno di moda ultimamente. Sì, sensazioni. Le sensazioni, voglio dire, ieri c'è stata la sentenza appunto arrivato Moggi. Lo sapeva mezza Italia che Moggi era un po' un delinquente, hanno scritto libri ancora prima uscisse scandali sul calcio riguardanti lui, che era un personaggio molto pulito. E poi insomma, sensazioni sapevano tutto e poi si vanno a sapere che cosa faceva. E quindi le sensazioni invece riguardano oggi, i giocatori possono vendere le partite, insomma, da 20 anni ci sono queste sensazioni, sì. Non bisogna stupirsi e nemmeno fare troppo serpilisti. Io non mi stupisco, non mi stupisco punto, caro Lorenzo, non mi stupisco per nulla, però io vorrei anche vedere, vorrei passare dalle sensazioni alle prove, perché è giusto così. Vorrei passare dalle sensazioni alle prove, e qui non vorrei cadere nel tranello del parallelo con Moggi, che è stato radiato ieri, che ha promesso battaglia con toni molto minacciosi e che sta per essere, insomma, la cui vicenda processuale non sportiva arriverà presto o tardi ad una conclusione. E allora dalle sensazioni passeremo alle sentenze scritte, poi se del caso le commenteremo. Antonio da Milano, buongiorno. Buon pomeriggio, signor Genta. Dica. Sì. Allora, io volevo parlare di, per quanto riguarda delle offerte di Eto'o, io sono un tifoso dell'Inter e un grande fan appunto di Eto'o, quindi mio parere, non so se lei è anche d'accordo, che i grandi campioni si vendono se una squadra vuole vincere, giusto? Questa dipende, è la mia perplessità. Dipende, perché un grande campione come Ibrahimovic è stato venduto, un altro come Eto'o è arrivato, sono arrivati anche un sacco di quattrini e l'Inter ha vinto tutto. Quindi i grandi campioni si possono pure vendere, soprattutto se nonostante un contratto pesantissimo in essere, insomma, fanno qualche capriccio, no? Sì, però come dicevo, mi perdoni, ma Ibrahim era un campione, ma a livello europeo lo sappiamo il suo valore qual è. Non ha vinto niente a livello europeo. Mentre tu a livello europeo, signori, ci dobbiamo stare in piedi a applaudirlo. Sì, sì. Quindi se l'Inter vuole ancora vincere una prossima Champions League o altre situazioni importanti, e tu lo devi tenere. E tu lo devi tenere, mi viene da domandare però, al di là di questo, che può essere corretto, per quale ragione ci sia questa diaspora da Milano? Perché Leonardo va via, ha deciso di andare via? Perché Eto'o lancia questi segnali? Perché Sneijder lascia tutto nelle mani dell'altissimo, il suo destino nelle mani di chi sta ai piani più alti? Perché Maicon dice forse è ora che me ne vada? Perché vogliono andare via dall'Inter? Forse perché Mourinho ha lasciato insieme a tanti trionfi un po' di terra bruciata? Probabilmente, perché questa è una squadra che andava rifondata, e abbiamo detto un miliardo di volte negli ultimi 13 mesi che... essendo molto coraggiosi e molto lungimiranti, questa squadra andava rifondata il giorno dopo, la mattina dopo aver vinto la Champions League, con Milito che chiedeva di andarsene, con Mourinho che se n'era già andato, con un ciclo meraviglioso, vincente come mai nella storia dell'Inter, però chiuso. E quindi forse col senno di poi sono bravi tutti, però forse era il caso di farlo, non è stato fatto. Chi può salvare il calcio sono solo i giocatori, lo dice Michel Platini in un'intervista a Rai Sport sulle questioni delle scommesse dintorni. Nel calcio ci sono tante cose belle, dice Platini, e ci sono anche dei problemi. Se ci sono colpe dei giocatori vanno punite, ma quel problema non è la violenza o gli hooligans, c'è di mezzo la delinquenza e anche il riciclaggio. Ho già chiesto da tempo che la polizia vigili su questo mondo del calcio, sono anni che porto avanti questa battaglia. Servono controlli e pulizia, ma dobbiamo difendere il gioco. In Francia hanno fatto delle leggi specifiche sulle scommesse, dice Roy Michel. Intanto diversi messaggi come su riduzione, questo di Fede d'Alessandria, su riduzione squadra in Lega Pro, prova a vedere la reazione dell'intoccabile Tommasi. Sì, però ovviamente ognuno difende il suo orto, però ci vuole un intervento dall'alto e dati alla mano, le squadre che non sono in grado di rispettare parametri dei campionati professionistici, che poi non sta scritto in nessun luogo che ci debbano essere 180 squadre professionistiche in un movimento, vanno avanti a giocare quelle che possono in sistemi non professionistici, e questo deve essere, non è il caso, non è il momento di farsi condizionare dalle prese di posizione di parte, questo secondo me. Intanto voglio fare un salto in Spagna, perché da lì stanno uscendo delle voci o vocine o vocione interessanti. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Allora, questi 30 milioni che avrebbe offerto l'Inter per Kakà, scrive Marca? Ma questa è verità o bugia? Una bufala colossale, tra l'altro in grave ritardo, perché noi sulla Gazzetta avevamo parlato di un interesse di eventuali scambi ai tempi in cui Leonardo era ancora saldamente in sella alla sua panchina nerazzurra, però mi sembra che gli eventi abbiano un po' superato tutto questo possibile scambio. Cioè, in realtà Mourinho, che comunque continua a dire che vuole tenersi Kakà, probabilmente l'aveva offerto per uno scambio con Maicon, però adesso questi 30 milioni non mi sembra che... Sì, vorrà anche tenerselo a fare Gesù Bambini in un presepe di attaccanti, perché adesso hanno preso anche Neymar e poi ne cercano degli altri. Aguero non so che fine ha fatto. Se viene Neymar non viene Aguero, questo è scontato, però sì, abbiamo davanti Aguero, Higuain, Benzema e Cristiano Ronaldo, e dietro... Sain, Kakà, Di Maria e Osil, insomma, di questi è difficile che possano giocare tutti e otto. Certo, se Casillas magari va in panchina anche lui, sistemano un po' tutto, insomma. Al di là di tutto, che Kakà possa diventare un problema, noi lo diciamo da tempo, più che altro perché Kakà ha un contratto ancora di 4 anni da praticamente 15 milioni lordi a stagione. Dove lo trova un club che gli offre 60 milioni quando poi lui ammette candidamente in un'intervista televisiva in Brasile dicendo no, il mio ginocchio non sarà mai più al 100%? Sì. Queste interviste in giro per il mondo stanno facendo più danni della grandine. Un giorno dice Thiago Silva: il Barcellona mi cerca, sono sposato con il Milan, però se mi corteggia il Barcellona. Ma qui l'hanno girata in maniera più interessante in Spagna, dicendo che il Milan ha ancora un grosso debito col Barcellona per Ibrahimovic. Allora dice, magari dice, se non volete darci i soldi dateci Thiago Silva, però questo già mi sembra una impostazione più poi non si farà, però mi sembra una impostazione più intelligente. E magari anche perché così Galliani si sbriga e dice no, Thiago Silva non lo vogliamo, però vediamo i soldi, non lo so, insomma, no? Però il fatto che sia Thiago Silva a dirlo è curioso, no? Cioè uno che ha un contratto fino al 2097 che dice voglio la mia maglietta ritirata, dice un giorno, e quello dopo a una TV del suo paese, però quasi una scappatella extraconiugale in blaugrana ce la faccio. I brasiliani hanno questo difetto, sono fortissimi a giocare a calcio, però poi insomma di essere... Non sono fedelissimi. Fedeltà, così vedono il calcio e la vita in maniera più... Più scanzonata. Ma sì, sono più aperti alle avventure, così, insomma, ai sentimenti. Insomma, io ho un modo così, un po' più bailato di interpretare la vita. E quindi vale anche per gli allenatori, Chiaro, è così, insomma, è oggi qui, domani qui, chissà. Però magari è una visione, la visione più carioca della vita, per cui è sempre stato così. Non si è mai visto, insomma, un brasiliano giurare fedeltà. Sì, oppure lo fanno, però poi giurare fedeltà, esatto, magari a tempo e fino alla prossima occasione, no? Esatto, è una fedeltà così. Questo a me non mi sorprende. In Spagna hanno un'idea molto molto precisa dei brasiliani. Noi forse siamo, li amiamo di più, abbiamo una visione più romantica. Sì. Però voglio dire, funziona così. Però Eto'o che brasiliano non è, Eto'o che brasiliano non è, dice: ok, Inter nel mio cuore, però in Premier League ci andrei volentieri. No, però ecco, allora, questa io ho visto, è rimbalzata questa intervista. Sì. Stamattina io l'ho cercata a lungo, non la versione italiana, volevo la versione ufficiale. Non ho capito bene da dove sia uscita questa intervista. Non so se, perché in Italia rimbalza sempre, io poi delle traduzioni ho imparato vivendo all'estero di affidarmi fino a un certo punto. Non lo so, comunque questa frase di Eto'o viene un po' sparacchiata lì, però io ti dico, l'originale non l'ho vista e quindi non mi permetto di giudicare. Per quella di Kakà me la sono andata a vedere ed era molto molto precisa, e allora lì non lascia dubbi, non lascia spazio a recriminazioni. Quella di Eto'o non lo so, però voglio dire, sì, tutto può succedere. Sì, si parlava anche a un certo punto, era spuntato fuori il Paris Saint Germain, allora figura adesso c'è questa grande rimpatriata, tutti al Paris Saint Germain, no? Leonardo, Eto'o, insomma, mi sembra che... No, ma tutto, è tutto estremamente divertente, caro Filippo, ti ringrazio, buon lavoro. Ciao, grazie Filippo. A voi. Grazie a Filippo Maria Ricci. So benissimo che Cantù ha fatto un'impresa ieri, lo saprete anche voi che l'avete vista, no? In gara 3 di finale scudetto del basket, Cantù che prova a rivoluzionare il mondo dei canestri e scrive: basta fuffa, scrive un ascoltatore, Cantù avrebbe fatto l'impresa, va bene che ne parlate domani, ma non è così che si fa crescere il basket. Domani palla spicchi dalle 14 alle 15 e tutto il basket e tutta la Cantù che volete, come ogni venerdì dell'anno, mica solo adesso che ci sono le finali scudetto, però questo è un happening che viene un po' così, no? Quindi se volete parlarne chiamate pure 800 24 00 24. Noi continuiamo a seguire l'onda con gli ascoltatori, Andrea da Firenze, Mauro da Milano e Antonio da Napoli. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo fare un paio di precisazioni, diciamo, su questa nuova formazione dell'Inter. Lei mi conforterà in questa affermazione. Io penso che comunque l'Inter sia davanti ad un bivio non da poco, nel senso che in casa si ritrova i giocatori che hanno dato molto e che difficilmente potranno dare, penso, ancora tanto indossando la stessa maglia, specialmente se poi alla guida della squadra c'è un allenatore come Leonardo che non mi sembra proprio rappresentare l'Inter al 100%. Dall'altra parte Michel Platini aveva prefissato una data che, se non sbaglio, il 2012, non mi ricordo bene, per quanto riguarda i bilanci societari. Sì. E l'Inter non mi sembra messa bene neanche da questo punto di vista. Terza cosa, guardandosi intorno, anche le altre grandi squadre italiane sono in fase di cambiamento, anzi di rifondazione, vedi la Juventus, vedi la Roma. L'unica squadra che presumo resterà irraggiungibile anche per la prossima stagione mi sembra il Milan, che fra l'altro, secondo me, con un innesto come Pastore, oltre a quelli che ha già fatto, diventerebbe veramente una squadra molto molto molto però forte. Pastore è fantamercato al momento, ogni giorno Zamparini cambia la quotazione, no? Sembra di stare al fixing, quindi la quotazione di Pastore all'ultimo rilevamento pare sia intorno ai 50 milioni. Non credo che il Milan abbia la possibilità e la voglia di spendere quei soldi. Secondo me il Milan rimane una squadra non irraggiungibile, soprattutto dall'Inter, ma vediamo quale Inter sarà a questo punto, perché è nascosta dietro il polverone a cui faceva riferimento Moratti. Io non credo che il Milan sia attrezzato in questo momento per essere competitivo a livello europeo. Questo è il mio pensiero. E poi c'è Marina da Milano che scrive: poi l'acquirente deve tenere presente che il prezzo per Kakà è all inclusive, cioè comprensivo di pubalgia. Sì, abbiamo, come detto, pubalgia, ginocchio, problemi fisici che lo hanno tenuto ai margini delle rotazioni di Mourinho quest'anno, non so se solo per quello. Mauro Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per la trasmissione che tutti i giorni ci regala. Grazie a lei. Volevo che mi desse una mano a capire la strategia del mercato della Juventus, nel senso che io da tifoso mi sento tutti i giorni sedotto e poi abbandonato. Ci parlano di nomi altisonanti e poi a quelle cifre loro non possono. Il che secondo me non è sbagliato, perché certe cifre secondo me sono fuori da ogni logica per le squadre italiane. Però non sarebbe secondo lei più onesto allora tirarsi fuori da subito da parte della società, dire questi nomi noi non li possiamo raggiungere, seguiamo qualche promessa più economica, ecco. Invece tutti i giorni nomi sempre più altisonanti per poi scoprire che non si possono avere. Sedotti e abbandonati. Lei cosa ne sedotti pensa? Io ne penso questo. Penso che il mercato della Juventus sia piuttosto misterioso al momento. Penso che la Juventus non sia al momento una destinazione così appetibile per grandi giocatori. Penso che la Juventus i soldi da spendere ci siano. Però non so, magari manca anche da parte di una dirigenza nuova ad altissimo livello sul piano internazionale, ma anche forse la scaltrezza nel trattare certi giocatori. Questo non lo so. Fatto sta che davvero la Juventus ha quattrini in cassa e ha voglia di diventare grande. Sanno benissimo che hanno bisogno di fuoriclasse, però i fuoriclasse costano e hanno molto mercato. Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Senta, io sono un tifoso della Juve alla Marco Travaglio. Praticamente non sono un estimatore di Moggi, sì. E sono anche contento della sentenza che è uscita oggi o ieri. Però allo stesso tempo volevo una spiegazione da lei sulle intercettazioni fatte da diciamo, riguardo Bergamo e Facchetti sul 4-4-4-5-5-5. Sì. Fatto che lui ha parlato con Bergamo e Bergamo ha raccomandato Facchetti dicendogli non ti preoccupare ragazzo, sa bene come si deve comportare, passeremo a 5 vittorie e quant'altro. Io mi sono rassegnato che Moggi è un delinquente, va bene che diciamo è stato escluso dal calcio. Ma queste telefonate come possono essere diciamo archiviate per un tifoso della Juve che si è visto oscillare tutto quello che aveva della grande Juventus? Sì. Questo voglio sapere. Beh, vuole saperlo, ce lo diranno i magistrati. vorrei saperlo anch'io. A parte il fatto che sono cose che mi fanno abbastanza venire il volto a stomaco, soprattutto quando vengono tirati in ballo certi personaggi che magari non ci sono più, però bisogna approfondire, è corretto approfondire e c'è un processo a Napoli che sta andando avanti e queste telefonate anche da un punto di vista mediatico, perché non è vero che nascondete questo, non volete parlare di questo, sono cose che sono su tutti i giornali ogni giorno, quindi sono cose pubbliche, anche se magari non dovrebbero essere pubbliche, sono cose pubbliche, dunque non c'è nessuno che nasconde queste cose. Ci sono dei giudici che stanno lavorando, che magari hanno le loro sensazioni e non le dicono, e che presto ci daranno una sentenza anche sul piano penale, mentre una sentenza sul piano sportivo è già arrivata ieri. Io saluto e ringrazio invece un nostro amico e un bravissimo corridore come Marco Pinotti, l'ingegnere. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Prima maglia rosa dell'ultimo Giro d'Italia. E la prima domanda che voglio farti è da tifoso Atalanta, se non sbaglio. Ma diciamo che simpatizzante. Simpatizzante. Non è che seguo, non seguo proprio il calcio. Non lo segui, ma avrai letto di quello che sta succedendo e di queste voci intorno all'Atalanta. Io voglio sapere le tue di sensazioni che mi interessano, più di quelle dei magistrati. Ma io non conosco bene i dettagli, però certo ho letto di sfuggito sui giornali quello che sta succedendo intorno al calcio in questo momento e che coinvolge sempre coinvolgere anche l'Atalanta. E ti sorprende questo o no? Ma non più di tanto, secondo me. Cioè io non ho seguito il calcio, però sì. Non mi sorprende, perché quando sono in gioco interessi così grandi è facile che persone cadano in tentazione, però certo è una cosa molto triste per il pubblico, perché ci sono tanti tifosi che tutti i tifosi credono nelle proprie squadre, fanno il tifo e penso che per loro sia una grande delusione quello che quello che sta venendo alla luce. Così è, così è. Però io ti avevo chiamato, per la verità, ti avevo chiamato già ieri, poi non avremmo potuto chiacchierare con calma. Ti avevo chiamato perché in tutto questo casino è bello veder spuntare in questi giorni, rispuntare un sorriso, che è quello di Damiano Cunego. Ti sorprende, sì. dico ancora, la resurrezione di Cunego che avevamo un po' perso per strada, o sembrava essersi perso un po' per strada? Ma forse, diciamo che io vivo questo sport dall'interno, Damiano ha mancato magari qualche risultato che che al grande pubblico può sembrare come si sia perso per strada, ma in realtà lui è sempre stato tra i protagonisti, diciamo, tra la vittoria del Lombardia nel 2008, non ha più vinto una grande classica o una corsa di nome, ma è sempre rimasto tra i protagonisti. Secondo me quest'anno lo ha aiutato un po' il cambio di la rivoluzione che c'è stata un po' nella squadra in cui corre, e quindi ha trovato persone che gli hanno dato più motivazione e fiducia, e non è una cosa inaspettata, secondo me, i risultati che sto ottenendo adesso al Giro di Svizzera. Io ho sempre detto, anche allo stesso Cunego, che sarebbe stato un grandissimo, che può ancora essere un grandissimo corridore da corse per un giorno. Lui ha la fissa dei giri e questo Giro di Svizzera sembra quasi dargli ragione, ingegnere. Ma sì, il Giro di Svizzera non è un grande giro, il problema è che ai grandi giri la concorrenza è più alta e diciamo ci sono corridori che quando arrivano cercano di arrivare all'altura, al massimo della forma, sono più forti di Cunego in una corsa di 3 settimane. Diciamo che se già vincesse il Giro di Svizzera è un corridore, è sempre da corsa a tappe, però ecco, nelle corse a tappe di 3 settimane e altura in particolare la concorrenza è più alta, e soprattutto quando abbiamo visto anche al Giro d'Italia, quando Contador è al massimo della forma, è davvero difficile batterlo. Un'ultima cosa, un ultimo ti sorprende, Marco? Ti sorprende leggere, ad esempio oggi sulla Gazzetta, di un'offerta, peraltro declinata, di 6 milioni da parte dell'Astana per Nibali? Beh, mi sorprende che diciamo, mi fa anche da un lato far piacere, perché l'offerta è stata rifiutata da parte della squadra. Nibali è sotto contratto, quindi è la sua squadra che ha rifiutato i 3 milioni di euro per lasciarlo andare. E questo mi sembra che vogliano un po' difendere la bandiera Nibali da Liquid. Questa è un po' una bella cosa, secondo me, perché Nibali resta in Italia a correre, e per il movimento è una buona cosa. Sì. Gli chieda chi vince il tour, mi scrive un ascoltatore, io te lo chiedo. Sì, io penso che se Contador arriva con la stessa condizione che aveva il Giro, secondo me ci arriverà, se non meglio. È difficile batterlo, perché bisogna staccarlo in montagna, ma lui non si può staccare, il cronometro è più forte di tutti i suoi avversari, e secondo me Contador vincerà questo Giro di Francia. E Ivan Basso? Ma Ivan ha avuto una stagione, è partito bene al Tirreno Adriatico, poi ha avuto qualche problema, adesso soprattutto ho letto che è caduto in allenamento sull'Etna, quindi ha dimostrato al Giro del Delfinato di essere in ripresa, ma essere più indietro rispetto agli altri. Ha finito il Giro del Delfinato intorno alla 25esima posizione, però ecco, questo in passato i corridori che hanno fatto sono arrivati sul podio del Tour erano stati nelle stesse condizioni. Quindi può darsi che penso che la massima aspirazione che possa fare è avvicinarsi al podio, quindi accompagnare il re Contador. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie ingegner Marco Pinotti. Così chiudiamo questa puntata, la riapriremo domani parlando naturalmente di basket e delle finali scudetto. Un ringraziamento particolare va a Luca Rinaldi, che ci ha accompagnato in questi giorni in redazione e in questi mesi qui a Radio 24, a cui auguriamo le migliori fortune per la sua carriera, e a Mauro De Angeli in redazione, che invece resta qui e sarà con noi anche domani. Buon pomeriggio.